Un viaggio tra musica, cultura e storia di pubblico dominio. Tutti i mercoledì alle 22 su Border Radio con Mariangela. Dominio pubblico, la regola, il copyright, l'eccezione.